Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontarti. Ladies and gentlemen, welcome to Resto Radio Convento. This is the first place in the Lake of Garda that in which you can speak of your life, of your party. E questa è una intervista internazionale perché siamo di fronte a un'esimia professoressa, esponente della lingua anglofona, e quindi dobbiamo un attimino metterci in tiro e metterci eleganti e bere del tè continuamente per farla sentire a casa. No, non è vero, cioè, è tutto vero fino adesso, tranne il fatto che beviamo il tè all'1:30 del mattino, quello non è vero. E quello che è certo è che continuiamo a parlare insieme ai festeggiati di questa serata. Nel frattempo è arrivato un piatto per una pieno, per una ragazza che non può rimanere senza cibo perché altrimenti le si sconquassa il metabolismo. Oh, prima le ho portato via il piatto, mi ha mangiato vivo e mi ha detto ma guardato col attenzione, no aspetta, ma guardato col dito alzato, e quando alzate il dito è un casino. No, mi sarebbe anche piaciuto, però no. Ma guardato e mi ha detto: togli tutto a una donna, ma non togliele il piatto di dosso. Cioè, con questa rabbia nel cuore, hai capito? E quindi da quel momento mi sono preoccupato che non fosse mai senza piatto, per non rivivere quella sensazione lì. Sì, ma mi sono sentito anche, cioè, male, nel senso che, vabbè. Madonna, sì, mi sono sentito... Esatto, mi sono sentito attaccato nel mio intimo. C'è Cilli nel mio intimo, tra le altre cose. Quindi quello è importante da dire. Ringraziamo Cilli per tutti i prodotti che ci manderà dopo questo bellissimo spot. Ma quello che conta, dopo aver parlato inutilmente per 1 minuto e mezzo, è festeggiare la nostra sposa che è qui con noi, che non abbiamo ancora presentato e che cogliamo l'occasione per presentare. Benvenuta! Ciao! Ci direbbe il nome in questo momento. Ciao, sono Laura. Eccola qui, benvenuta Laura, da dove vieni? Da Bione. Oh, una ridente cittadina, esatto, di 1400 abitanti. Perché qui dovete capire che c'è un fortissimo patriottismo per Bione, che il comune recita abitare da 1410 persone, mentre Wikipedia dice 1363. Quindi abbiamo perso 40-45 minuti per cercare di capire chi aveva ragione. E siccome Laura, essendo professoressa di inglese, ha nella sua anima la, come dire, la precisione e la dovizia di particolare, quelle di matematica, non quelle di... anche quelle di inglese li hanno potuti. Ci siamo un attimo messi qui e abbiamo cominciato a dire: allora, io conosco l'Anna, Luigi, Angelo, Samantha. Cerchiamo di capire chi si avvicinasse di più tra il comune e Wikipedia. Quindi sappiate che potete andare a Bione a visitarla, bellissime chiese, bellissimi paesaggi, poche persone. Bellissima gente. Come sono gli abitanti di Bione? Dici un po'. Allora, sono molto accoglienti. Simpatici. Sì. Gentili. Poi. Che ne so, un po', sì, ecco, sì, sono un po' curiosoni. E si impicciano. Tanto. Si impicciano tanto. Però in buona fede. In buona. Le vecchiette ci tengono. Beh, ma la vecchietta che si impiccia è nazional popolare, cioè nel senso da nord a sud. Urca. Che spia da... No, dimmi subito i gossip di Bione, perché cioè gli ascoltatori ci sono fermati tutti. Uno ha parcheggiato la macchina in un posteggio per ascoltare il gossip di Bione in questo momento. Dove abita la signora Fletcher, no? Lì, quella lì, che dove muoiono tutti, la signora in giallo. Sì, sì. Sai, sì. Che avete un paese sfigato e muoiono tutti. Bion. Pensavo forse però l'alter ego inglese di... cosa, perché ci sono pochissimi abitanti, ma succede un casino. Tipo quello che va con quella di fronte, poi una che partorisce e non sapeva neanche di essere incinta. Allora, poi... sì, è vero, poi cosa... E tipo Silent Hill, cioè succede alla qualunque. Sì, di tutto. Cioè, bellissimo. Tipo, tu non lo sai neanche di essere incinta, allora ti hanno detto che hai già sposato due bambini, che sei sposata, che fai le corna con quello, che vai con l'altro e basta. Quello è un po', esatto, è un po' dappertutto. Sì, ma siamo in pochi, cioè... Full ci fa una pippa in confronto, nel senso, ecco. Madonna, ma è tutto vero, no? Tutto inventato? Non lo sappiamo, però abbiamo la nostra amica Sara. Salutiamo la prima coreografa e animatrice di Bione, che è ancora ha le mani al cielo dalle 9:30 in attesa che qualcuno la segua, ma nessuno la guarda. E sono tutte con le mani giù. La nostra amica Sara, per scoprire le cose, ha un travestimento speciale. Si traveste da sacchetto della spazzatura e poi va in giro. a buttarsi nei bidoni, così quando succede qualcosa lei è sul posto, capisci? È la cosa più bella che abbia mai sentito. Cioè, troppo avanti. Ma è vero, Sara, dov'è? L'ha fatto, ammettilo, Sara. L'hai fatto davvero? L'ha fatto. Ma per scoprire cosa? Niente, perché praticamente niente. Inutilmente. Eh beh, però cosa qualcosa avrei sospettato, se non è che mi vesto da spazzatura. Era un incendio, quindi una cosa grave, tra l'altro. E tu pensando che il sacchetto fosse ignifugo, giustamente ti sei messa dentro. Ma che vada, brucia Brione, io non brucio perché sto nel sacchetto. Sì, sì, guarda, che è una tecnica. È incredibile, è un genio, cioè un genio incredibile. Veramente troppo avanti. Sono rimasto veramente scioccato. Adesso guarderò su Google Maps quanto c'è da casa mia lì, perché voglio venire in vacanza a vita a Brione. No, no, assolutamente sì. E tra l'altro parliamo anche di un fatto secondario all'interno di questa intervista, perché il fatto primario è chiaramente la promozione turistica, esatto, di Brione. Venite tutti a trovarci. Esatto, poi succede ogni tanto che la Laura si sposi. Però vabbè, quello ne parliamo velocemente. No, ogni tanto, nel senso che può essere una notizia importante, però molto meno rispetto alla promozione turistica di Brione. Ma per dovere di cronaca, se no l'amica lì, quella del piatto, si arrabbia. Ah, sì, e non lo diciamo, ma ha detto è la sorella, ecco perché Sara abbiamo detto: mi raccomando, parliamo almeno un minuto del matrimonio della Laura, se no mi rimango male. Sai quanto ho aspettato per sposarmi? Tu o lei? Ho aspettato lui. Sì? Cioè, spara. Tanto lei sta guardando le stelle, ha deciso di fare l'astrologa. Secondo te quanto ho aspettato? Cioè, tu hai aspettato lui? Sì. Cioè, ma lui inteso. Guarda, quello te lo metto sul conto dopo, eh. No, ma scusa, lui inteso un quell'uomo lì, o che lui si convincesse a sposarlo? Che lui si convincesse. Ah, ok. Ma stavate già insieme? Sì. Ok? 2 anni. Sì. Più su. Insieme da, ti dico da quanto siamo insieme? Sì. 14 anni. Bello 14 anni. Bello che cosa? Ma bello essere insieme da 14 anni, sì, insomma, è una storia importante. Cosa vuol dire aspettare un anello per non so quanti anni? Cioè, e come mai non te l'ha mai dato? Fallo vedere l'anello. Sì, che tra l'altro l'ha attaccato con l'attac pur di non perderlo. Pongo, cioè, pescato da. E come mai ha aspettato così tanto? Non lo so. E beh, gliel'avrai chiesto. Certo che gliel'ho chiesto. E lui cosa ti ha risposto? Non lo so, perché non sono convinto, bla bla bla. Non sono convinto. No, non sono convinto. È l'idea del matrimonio. Ah, che lo spaventa. E allora la domanda si ribalta: come mai adesso sei convinto? Cioè, o è arrivata la sorella con la baionetta e gli ha detto: ragazzo mio, o la sposi. No, o la sposi perché io ho bisogno della camera singola. Oppure io. Da sola. Ah, ok, quindi niente? Niente? No, allora perché siamo andati a convivere e ha visto che alla fine non cambia niente. Ah, ok. Come tutti gli uomini che hanno paura della loro ombra, cioè alla fine non cambia niente. Mi piace questa grande, come dire, questo grande. No, a parte la generalizzazione, questo grande amore che ha per il suo futuro marito. Sì, cioè, ma si vede che c'è del sentimento e c'è della stima soprattutto. La stima è quello che conta in un rapporto. Tra l'altro loro intanto stanno dando forme diverse al microfono. Stanno creando sculture creative. Facendo culture creative, lei è l'artigiana di Brione e insomma potete trovarla sul sito www.creomicrofoni.it e ci sono i saldi tra l'altro sul suo sito, sì, quindi esatto. Approfittatene e insomma microfoni in cera, in argilla, insomma tanti materiali e soprattutto tutti in posizioni strane. Esatto. Ci stava dando spoggio insomma della sua arte, peccato, grazie per vederle. È un peccato davvero, ma a breve metteremo la webcam e quindi sì, avremo modo di esprimere anche le potenzialità artistiche di tutti coloro. E allora, quindi, tornando a noi, il tuo futuro marito, cioè futuro marito, nel senso colui che è stato obbligato fondamentalmente, esatto, a sposarsi, si chiama? Marco, che adesso sta girando con delle catene alle caviglie e girerà la palla al piede, così. E la porterà per tutta la vita, chiaro, essendo, avendo avuto questa cioè, questa spinta fondamentalmente che veniva proprio dal cuore a fare questo grande passo. E quando vi sposerete? L'8 settembre, e quindi c'è da controllare bene l'agenda che non abbia preso 200 impegni diversi pur di prendere una scusa per non venire. L'hai già fatto? Già fatto. Ah, ok, già bene, posso, quindi quello là. Brava, l'ha controllata. Che giorno è l'8 settembre? Perfetto, il campionato ancora non è iniziato, quindi non può dirti devo andarmi a vedere alla Juve l'esordio di Cristiano Ronaldo. Insomma, no, esatto. Stiamo cercando di escludere tutte le ipotesi, anche perché voi a Brione fate questo nella vita. cioè nel senso certo, indagare certo. Quindi è importante. E dove vi sposerete? A perfetto, vedi. Cioè, nel senso, allora, non volevo farla la domanda perché sapevo era scontata, sì. Però mi sembrava bello che la gente sapesse che a Bione ci si sposa anche. Cioè, sì. Quest'anno boom di matrimoni. Non è solo da visitare, ci si sposa anche. Sì, boom di matrimoni quest'anno. Ok. E parlando quindi delle signore che parlano di prima, che come dire, che parole ci sono state, che commenti ci sono state alla notizia del vostro matrimonio? Cioè ci saranno state tanti le Raura, che immagino sia molto bresciano. Assolutamente. Vista come me l'hai raccontata. Anche dalle parti dei genitori. Questo. No, entrambe le parti. Le Raura, sì, bene, ma almeno. Esatto. E scusa, c'è uno stalker alla finestra. No, ma lui è, lui lavora con lei. Lui fa edilizia. Ah, ok. Lui praticamente fa crollare edifici. No, ah, pulisce anche i vetri. Sì, pulisce i vetri e fa crollare edifici. Stava cercando di buttarci. Mamma mia, sì, va bene. Che bravo. Cosa ha fatto? Cosa va? Chi è? Tutto bene? No, secondo me non è presentissimo. Comunque va bene così. Lo salutiamo, lo ringraziamo. Grandissimo, è bellissimo parlare con te. Dicevi? I commenti. Non so i commenti. Beh, non hai sentito niente? No, allora, le vicine sono molto contente perché vogliono vedere la sposa. Bellissimo. E poi se ne frega, cioè, nel senso, dal giorno dopo ti buttano i ricci in casa, sì, i petardi. Però solo quel giorno lì vorrebbero. Ho ricevuto tanti complimenti, però poi sai che le... Complimenti per il vestito, che ancora non hanno visto, ma comunque te li fanno a prescindere. Bello. E no, tanti complimenti e auguri per le nozze. Ecco. Bene, poi, quindi c'è sostegno a Brione. Sì, certo. E spero che tu abbia prenotato una chiesa molto grande o che abbia comunque contemplato che tu hai invitato 200 persone, ci saranno almeno 700 intrusi che vogliono vedere solo la sposa. No, ma stanno fuori quelli. Lo so, però sicuramente ci sarà una coda infinita di curiosi a questo punto che Royal Wedding. Sì, come al Royal Wedding, assolutamente sì. Diamo anche velocissimamente un po' di spazio anche a coloro che ti hanno accompagnata, vuoi presentarcela, dici tu, al di là della sorella che abbiamo saputo essere una bellissima persona, una bravissima persona. Allora abbiamo la testimone, Debora, e non devi farla arrabbiare. Dov'è? La Debora, no? Ah, è lei, la più vicina. Allora Sara, che è molto brava a ballare. E fa il sacchetto dell'immondizia. Quindi lo raccoglie. Quando è che la troviamo la Sara? Il martedì cosa c'è? Il martedì l'umido. Quindi il martedì, perfetto. Quindi mi raccomando, se volete conoscere, è single, fidanzata? Single, perfetto. Quindi se volete conoscere... Cerca di un fidanzato. Benissimo. Quindi mi raccomando, se volete conoscere meglio la Sara, che insomma è un bel tipino, quindi ve la consigliamo, il martedì sera cercate un sacchetto della spazzatura nelle vie di Bione. E quando lo trovate, prima di presentarvi, urlate al mondo quanto amate la città di Bione. E in quel modo già avete un paio di punti di vantaggio per conquistare il cuore della Sara. Vai, adesso possiamo procedere. Poi abbiamo la sorella Maria, poi futura cognata. E che ne so, se non lo sai tu, io. Non so, sono tutte bellissime amiche, però non le conosco, se non sai tu chi è. Poi abbiamo la Michela. Ah, ok, la Michela, ciao Michela. Abbiamo la Elisa. Sì. Salutando Elisa, che è lei, lei sta già puntando a un po' di gente qui. Perché esatto, lei sta già esatto. È una mia collega. E la Maura, per gli amici Suli. Beh, diciamo, facilissimo come soprannome, da Maura a Suli è proprio lì di fianco. Sulin. Amica d'infanzia. Bene, poi ci sono le purate, le escluse che sono rimaste fuori. Allora, diamo una menzione anche a loro. Allora abbiamo Imma, che è l'altra testimone. Poi abbiamo altre colleghe, quindi Sara. Di cui non ricordo nemmeno. Ah, ok, pensavo non sapessi i nomi. Sara, Eleonora, Chiara. Poi chi c'è ancora? Ah, poi c'è Debora, esatto. Altre amiche d'infanzia, Alice, Emily. E basta, tutte giusto. Le dette tutte, non abbiamo fatto torto a nessuno. No. Se ne è convinta tu, io mi fido. Sì, volevo comunque segnalare che c'è una persona molesta qui dentro. Dov'è? Ah, qui dentro? Allora sì, no, lì. Allora c'è uno che ha la maglietta verde, ok. Ah sì. E intristisce tantissimo la persona. Intristisce, addirittura. Mi ha fatto venire l'ansia, mi ha detto: non sei sicuro di sposarti, non farlo, perché la vita è brutta. Vabbè, ma tu devi essere più forte. Togliermi la vita, sì, ho Madonna, capito. Togliermi la vita addirittura, sì, no, perché tu ti sposi. Ah, ok. No, stavo enfatizzando, sai. Ah, ok. Però ma tu devi essere più forte di queste provocazioni. Che sì, c'è una capito, c'è ma una... voglio divertirmi stasera, mica c'è una persona c'è una persona che purtroppo è passata miglior vita, che per 40 giorni ha resistito alle tentazioni del diavolo. Quindi anche tu devi resistere alle stesse tentazioni e non cedere di fronte a tutto questo. Amen. Sempre comunque. Pace a Vobis, pace a Vobis. Allora dai, visto che siamo quasi in conclusione, vuoi salutare qualcuno, vuoi dire qualcosa? Che non sia già stato detto, no, visto che abbiamo detto cose interessantissime. Ecco, sì, salutiamo i suoceri che sono importantissimi. È giusto allora, comprarsi la benevolenza delle persone importanti. Assolutamente. Ringrazio tutte le mie amiche che hanno organizzato questa serata, soprattutto la mia amica Deborah, bisogna dirlo perché sennò si arrabbia. E Imma anche, esatto, che sono state bravissime, esatto. Per cosa volevo dire? Che amo tanto il mio Marco. Guarda me, cosa volevo dire? Se non lo sei tu. Non lo so, non ci vedo, c'è uno che si struscia lì. Ma no, tu non badarci, non badarci. Allora, che sì, esatto, amo tantissimo il mio Marco e speriamo che quel giorno lì si presenti. Perché mosso cioè, cazzi. Sennò. Esatto, esatto, assolutamente sì. E no, soprattutto anche perché... Anche dal punto di vista musicale, diciamo che il nome Marco non è che porti sì, bei ricordi. Marco, porta sfiga un sacco. Ma al di là di portare sfiga, c'è proprio Marco, se n'è andato e non ritorna più. Che direi che l'8 settembre potrebbe essere la sigla iniziale. Se davvero non si presentasse, vedrai che un modo lo trova per venire. Lo vanno a prendere. Portami sfiga. Guarda che no, lo va a prendere la Maria, lo va a prendere a piedi. Sì, no, ma anche la Debora è violenta. Anche la mamma, la Debora quanto è violenta? Sì, sì, sì, violenta. Cattiva. Cattiva. È cattiva, è cattiva. Va bene, allora noi ci auguriamo di rivederla qui il 9 settembre felice e contenta. E... No, magari vado in viaggio di nozze il 9 settembre. Beh, che ne so, ma a subito parti. Dove vai? Dove vai? 10. Dove vai? 10. Alle 6 scelte. Vabbè, il 9 quindi sei libera. Se parti il 10, sì, il 9 sei libera. Sì, sì, appunto, quindi devi venire qui a confermarci che Marco si è presentato, che sei contenta, che sei soddisfatta e anche noi di riflesso siamo soddisfatti. E soprattutto dovrei dirci che la Sara ha trovato un marito, cioè marito, un sì, fidanzato. No, esatto, quello che conta. Volevamo fare un appello a tutti qui presenti perché appunto la Sara sta cercando, com'è che lo vuoi Sara? Beh, bella presenza. Ah, ok, importante, importante. In banca, vabbè, no, vabbè, non fa niente. Mm-hmm. Con la buccia o senza? Con la buccia. Lo vuoi con la buccia o senza? No, senza perché... Senza, ok. Ok? Ok. E basta. E possibilmente non sudato, ma stasera sarà mi sa che ti va male. Perfetto, beh direi che una ragazza seria, posata, visto che lo vuole, di bella presenza e ricco, direi. Insomma, caratteristiche importanti che anche qui vengono sentimentale. È una sentimentale la sala, si capisce, si capisce? Sì, è romantica. È romantica, si capisce. Va bene, allora, grazie mille ragazze per essere state con noi. E una buona serata, alla prossima!